24. La storia. Se domani vi attiverete, venite presi dal KGB, morirete nel più atroce dei modi. Però uno dice, costi quel che costi, io devo fare questa roba qua. La clandestinità diventa un impegno di carattere reale. Si muore. In una rete ogni gladiatore conosceva uno o due persone. Non è detto che in una rete di cinque uomini per quinto uomo conoscesse il caporete. Emerge che c'era una struttura super segreta, riservatissima, di cui non sapevano nulla e nemmeno i vertici dello Stato italiano. Gladio non è le stragi, Gladio non è le bombe, non è l'eversione. Mentre la Gladio bianca era decisamente apolitica, la Gladio nera, e cioè gli NDS, sono stati coinvolti negli attentati in Piazza Fontana e tutto in una serie di altri attentati. 622 uomini e donne reclutati, addestrati in clandestinità per prendere le armi e organizzare la resistenza contro un'eventuale invasione dell'Unione Sovietica. Quella che raccontiamo oggi a Mix 24 è la storia di un'operazione segretissima, nome in codice Gladio. Rimasta coperta per 40 anni, viene alla luce solo nel 1990, in circostanze misteriose. Una vicenda che suscita subito dubbi e polemiche, che si intreccia con le stragi e il caso Moro. Insomma, un giallo internazionale che ha inizio in una sera di primavera del 1972. Mercoledì 31 maggio 1972. Tutta l'Italia è davanti alla televisione. Si trasmette Inter-Ajax, finale di Coppa dei Campioni. Anche alla stazione dei carabinieri di Gradisca, a Gorizia, stanno guardando la partita. Poi, alle 22.35, arriva una telefonata anonima. Senta, vorrei dirle che gliela una macchina che ha due buchi sul parapressa, no? Fra la strada di Pozzo Terfermata a Savonia. Il problema per me a quel punto è stato quello: fuori il proiettile, spari, può essere che abbia ucciso qualcuno, abbia ferito qualcuno. La zona qui era talmente tranquilla, talmente sicura, che mai poi mai poteva venire in mente che si potesse trattare di una trappola, di un attentato. Per cercare appunto di arrivare a una conclusione abbiamo cominciato a setacciare tutto l'interno della macchina. All'interno della macchina ricordo che abbiamo trovato un impermeabile, abbiamo trovato una carta stradale della Slovenia, però nessun documento né di proprietà né di appartenenza. A questo punto allora ho deciso che bisognava completare l'ispezione e guardare anche nel cofano anteriore. Avete sentito Angelo Tagliari, tenente dei carabinieri, che ordina di guardare nel cofano. È una trappola. Nella leva del cofano della Fiat 500, abbandonata a Peteano, c'è una bomba. E quando i carabinieri la aprono, l'auto esplode. Salta in aria una macchina imbottita di tritolo. Perdono la vita tre carabinieri, un quarto resta... Ho sentito un boato spaventoso e un bagliore che mi ha accecato. Corpi dilaniati con arti nel raggio di 100 metri, una cosa terrificante. Mi hanno riconosciuto perché sulla spallina avevo ancora una stelletta. Il tenente Tagliari, che avete sentito, resta vivo per miracolo. La bomba di Peteano uccide tre carabinieri: Antonio Ferraro, Donato Poveromo, Franco Don Giovanni. Le indagini sull'attentato imboccano da subito la pista rossa. Del resto, in quel 1972 i conflitti sociali si sono fatti sempre più violenti. Due settimane prima, il 18 maggio, è stato assassinato a Milano il commissario Calabresi. Il 14 marzo è rimasto ucciso in circostanze misteriose l'editore Gian Giacomo Feltrinelli. Mentre il 3 marzo, sempre a Milano, le BR compiono il loro primo rapimento, sequestrando il dirigente della SIT Siemens, Hidalgo Macchiarini. Per Peteano, nel mirino degli inquirenti, finiscono le BR e lotta continua. Ma sono buchi nell'acqua. Si affaccia anche l'ipotesi del terrorismo nero. Nel marzo del 1972, a Padova, sono stati arrestati infatti i neofascisti Franco Freda e Giovanni Ventura, con l'accusa di aver organizzato una serie di attentati, tra cui la strage di Piazza Fontana a Milano. Ma il colonnello Mingarelli, che coordina le indagini, decide di seguire un'altra pista. Sentiamolo. Posso dire soltanto questo, che nel fatto di Peteano di Sagrado si escludono motivazioni o implicazioni di natura politica. Nel mirino dei carabinieri di Udine finisce invece la malavita locale. Vengono arrestati 6 ragazzi del posto. Dopo 7 anni però una sentenza definitiva li assolve con formula piena. L'attentato di Peteano sembra non avere colpevoli perché le indagini sono state depistate fin dal principio. Ce lo spiega il magistrato Felice Casson. Era da capire per quale motivo c'era una tale pervicacia nel voler assolutamente trovare delle piste false, piste inventate. I carabinieri erano venuti a sapere praticamente subito e comunque nel giro di pochi mesi che le responsabilità per la strage di Peteano dovevano farsi risalire ai neofascisti friulani. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24. Quella che stiamo raccontando oggi è la storia di una struttura parallela, nome in codice Gladio. È il 6 ottobre del 72, sono passati 4 mesi dall'attentato a Peteano all'aeroporto Ronchi dei Legionari di Trieste e un militante di Ordine Nuovo tenta di deviare un Fokker diretto a Bari. Chiede 200 milioni e la liberazione di Franco Freda. Il direttore resta ucciso in uno scontro a fuoco. Si chiamava Ivano Boccaccio. A questo Ivano Boccaccio, un ex paracadutista della divisione Folgore, viene trovato addosso una pistola calibro 22. Quella stessa pistola è stata usata per la macchina della strage Peteano. Ex paracadutista della Folgore, Boccaccio viene trovato con addosso una calibro 22. La stessa arma è stata usata sia all'aeroporto di Trieste, sia per crivellare proprio quella Fiat 500 di Peteano. L'arma appartiene a Carlo Ciputtini, dirigente locale dell'MSI. Un passato in Ordine Nuovo e, dal giorno del tentato dirottamento, è latitante in Spagna. Grazie ad una perizia fonica, Casson scopre che proprio Ciputtini è l'autore della telefonata anonima che ha attirato i carabinieri nella trappola di Peteano. La pista nera seguita da Casson dà i suoi frutti. Nel 1984 uno degli attentatori confessa. È grazie alla sua testimonianza che per la prima volta si scopre la verità sulla strage. Il suo nome è Vincenzo Vinciguerra, che così risponde intervistato da Sergio Zavoli nel 1990. Lei si è definito, se non ricordo male, un soldato politico. Cosa significa? Significa che ho delle idee. Per esse mi batto. È da soldato a tirare 3 vittime inconsapevoli in un tranello mortale. Ma questa non è la guerra classica. Questa è la guerra che i tecnici degli stati maggiori, compreso quello italiano, chiamano non ortodossa. La guerra non ortodossa non risponde alle regole della guerra classica. E questo, degli agguati, degli attentati, non è soltanto che un mezzo, uno dei tanti metodi impiegati in questo tipo di guerra, impiegati anche da militari in uniforme, e ai quali però nessuno rimprovera l'adozione di certi metodi. La guerra non ortodossa di cui parla Vinciguerra è quella contro il comunismo. E in questa guerra, racconta l'attentatore di Peteano, i neofascisti sono stati affiancati da apparati deviati dello Stato. Il giudice Casson chiama a deporre i vertici dei servizi segreti, tra cui il generale Maletti, ex capo del controspionaggio del SID, che fa una rivelazione clamorosa. Dalle sue dichiarazioni emerge che c'era una struttura super segreta, riservatissima, di cui non sapevano nulla nemmeno i vertici dello Stato italiano. Comincio, per così dire, a tampinare anche il Presidente del Consiglio dei Ministri, che all'epoca era Giulio Andreotti, scrivendogli alcune lettere e dicendo: guardi, sono arrivato a questo punto d'indagine, avrei la necessità di vedere negli archivi dei servizi segreti militari italiani che cosa c'è. Il giudice Casson, l'avete sentito, è deciso ad andare avanti. Nel frattempo però è il 1990, il mondo è cambiato. Con la caduta del muro di Berlino si disegnano nuovi equilibri internazionali e anche la guerra fredda ormai sembra non avere più nessun senso, mentre sui giornali cominciano a fiorare le prime indiscrezioni. Il 24 ottobre del 90 alla Camera il presidente del Consiglio Andreotti, a sorpresa, rivela l'esistenza di Gladio, una rete clandestina specializzata nella guerra non ortodossa, il cui compito è reagire a un'eventuale invasione sovietica. Io entro negli archivi di Forte Boccea e lì ho la conferma documentale dell'esistenza di questa struttura Gladio Stay Behind. Era Felice Casson. Gladio è un'operazione top secret. Neppure il Parlamento e perfino alcuni presidenti del Consiglio, a loro dire, non ne sono mai stati informati. L'esistenza di un esercito clandestino in un paese che non ha ottenuto ancora verità sulle stragi desta sospetti terribili. Nelle sue indagini Casson scopre un altro elemento inquietante. Gladio possiede depositi di armi ed esplosivi da utilizzare in caso di invasione. Nome in codice NASCO. I NASCO sono 139 disseminati in tutto il nord, persino nelle chiese e nei cimiteri, e uno di questi NASCO è stato scoperto per caso da due ragazzi nel 1972 ad Aurisina, vicino Trieste. Contiene esplosivo, mitra Sten, pistole Star spagnole, detonatori a tempo, i tipici attrezzi del guerrigliero. Aurisina sta a meno di 30 km dal luogo in cui è avvenuto l'attentato di Peteano del 31 maggio del 72. Per il giudice Casson questa non è una coincidenza. Sentiamolo. La sorpresa viene fuori quando si vede che nel NASCO di Aurisina i carabinieri trovano più materiale, anche esplosivo, di quello che ci doveva essere, ma trovano anche del materiale in meno. C'era in meno due accenditori a strappo. Gli accenditori a strappo sono fondamentali per la strage di Peteano, perché l'ordigno di Peteano è stato creato con il sistema dell'accensione a strappo. Per Casson, quello degli accenditori è l'indizio che collega Gladio alla strage di Peteano. I responsabili dell'organizzazione finiscono sotto processo con accuse pesantissime: banda armata, cospirazione, distruzione di documenti, mentre gli elenchi con i nomi dei 622 gladiatori vengono pubblicati sui giornali. E allora chi sono i gladiatori? Dei patrioti o dei cospiratori? Dei cittadini a servizio del paese dell'Alleanza Atlantica oppure dei pericolosi eversori? Quelli della scoperta di Gladio sono giorni convulsi, attraversati da polemiche roventi, e intanto emergono altri dettagli. Si scopre per esempio che Gladio non esiste solo in Italia, al contrario fa parte di un progetto della NATO ed è collegato con altre organizzazioni gemelle in tutta Europa, e la rete Stay Behind, come racconta il capo della rete Gladio di Milano, Francesco Gironde. Eravamo collegati a livello internazionale, noi facevamo esercitazioni con appartenenti a comandi di reti Stay Behind estere. Anche in altri paesi europei alla rivelazione di Stay Behind, i magistrati che indagano su stragi irrisolte chiedono i documenti segreti dell'organizzazione. Le reti finiscono sotto inchiesta. In Germania per la bomba del 1980 all'Oktoberfest di Monaco e in Belgio per la catena di delitti del Drabat. Nessuno che abbia mai collaborato alle strutture di Stay Behind, né tantomeno i miei colleghi del servizio segreto, sono mai stati coinvolti in alcuna azione criminosa. E quando una commissione parlamentare cominciò a premere per conoscere l'identità di chi aveva accettato di farne parte come caporete o come agente, non ho avuto alcuna esitazione a rifiutarmi nel modo più assoluto di fare i nomi. È una cosa che non si fa. Come avete sentito dal capo dei servizi segreti del Belgio, Alberto Res, a differenza di quanto avviene in Italia, gli archivi di Stay Behind straniere rimangono inviolabili e coperti dal segreto. e d'altra parte a tutt'oggi, dopo anni di indagini, non esiste una sola prova che dimostri il coinvolgimento di Stay Behind in attività eversive o criminali di nessun tipo. E allora che cos'era davvero Gladio? E come nasce il progetto Stay Behind? A parlarcene il responsabile Gladio Paolo Inzerilli. Quando è finita la Seconda Guerra Mondiale, praticamente non esistevano più eserciti, esistevano tre eserciti, quello sovietico, quello americano e quello inglese. Tutti gli altri erano stati spazzati via dalla guerra. E i rossi già stavano in Germania, ricordiamocelo. Il loro sforzo principale sarebbe stato quello attuato dalla Germania nazista nella Seconda Guerra Mondiale, cioè attraverso la Germania occidentale e i paesi Benelux e Francia e raggiungere il mare. Fu per questo che i vertici dell'intelligence britannica e americana, insieme ai belgi, si resero conto che in futuro le strutture di Stay Behind sarebbero state fondamentali non solo in Belgio, ma anche in altri paesi. È in questo contesto che nasce il progetto Stay Behind, la costituzione di reti clandestine anti-invasione comunista. E il primo embrione nasce in Belgio, paese ritenuto più vulnerabile all'invasione, dove infatti durante l'occupazione nazista i partigiani avevano creato molte difficoltà alle truppe di Hitler. All'alba della Guerra Fredda è Winston Churchill a proporre di preparare in tempo di pace nuclei di partigiani in funzione antisovietica. Nel mondo diviso in blocchi, l'Italia la sua scelta l'ha già fatta, con le elezioni del 1948 vinte dalla Democrazia Cristiana e con l'adesione al Patto Atlantico. Ma l'Italia è zona di confine e anche il nostro paese ha la sua Berlino. Trieste è una città divisa tra il settore anglo-americano e la zona B assegnata alla Jugoslavia di Tito. E infatti a proteggere il confine orientale da un attacco militare jugoslavo, nel 1949 il governo italiano crea una milizia anti-invasione, la Milizia O. A comporla gli ex partigiani friulani della brigata Osoppo, animati da un anticomunismo viscerale. La Milizia O viene mobilitata solo una volta, nel settembre 1953, quando Tito minaccia di invadere il territorio libero di Trieste. I membri della O ricevono l'ordine di fare attività informativa e di disporsi pronti a reagire in caso di invasione. Ce ne parla l'agente Gladio Paolo Pocecco. Ci fu una tensione tra Tito e il nostro governo e per cui entrambi i paesi cominciarono a schierare le truppe sul confine. Io ricordo che passando col treno si vedevano ricoveri, casamatte, soldati pronti alla difesa. La situazione sul confine jugoslavo rimane tranquilla, ma il progetto delle reti anti-invasione va avanti e si estende a tutto il paese. Nel 1956, l'anno in cui i carri armati sovietici reprimono nel sangue la rivolta di Budapest, con un'intesa tra la CIA e i servizi segreti italiani nasce l'Operazione Gladio. Mix 24, la storia. La Osoppo è nata, è cresciuta e continuata a vivere per difendere i confini orientali. Gladio invece è nata per difendere tutto il territorio nazionale da un'eventuale invasione. Bentornati a Mix 24, avete sentito Paolo Inzerilli, responsabile di Gladio, una organizzazione anticomunista finanziata dagli Stati Uniti e dal Regno Unito che forniscono rispettivamente armi e istruttori per gli agenti segreti. Reti di Gladio vengono istituite soprattutto a ridosso dei confini e nelle grandi città. In tutta Italia inizia il reclutamento degli agenti, tra questi Francesco Gironda e Giorgio Mathieu. Ascoltiamoli. Chi mi ha contattato era un ex comandante partigiano. Disse: guarda, io so che esiste, anzi io in qualche maniera ho contribuito, ne faccio parte fin dall'inizio, una organizzazione dello Stato, delle forze armate, che si occupa di preparare delle persone specializzandole nell'attività clandestina in un territorio occupato. questa cosa ti convince? E io dissi sì, in linea generale sì. La cosa singolare è che all'improvviso la mia portinaia mi avvisò che i carabinieri erano venuti a cercarmi, nel senso che facevano domande su di me, com'ero, come mi comportavo, e poi negli anni successivi capii che evidentemente era una procedura standard, che i carabinieri forse non erano carabinieri, forse erano agenti dei servizi segreti. Il segno di riconoscimento doveva essere un giornale locale. Con questo giornale sotto il braccio avrei dovuto sedermi al bar della stazione Terni. Sarei stato avvicinato da una persona, così avvenne. Il campo di addestramento delle reclute di Gladio è Capo Marraggio, nella costa nord-ovest della Sardegna. Una base segreta, costruita con i soldi della CIA, in cui i gladiatori si addestrano al sabotaggio e alla guerra psicologica. Ce ne parlano i capi della rete Gladio, Francesco Gironda e Giorgio Mathieu. La prima lezione in accoglimento in aula veniva spiegata la filosofia di impiego, gli obiettivi della Gladio. Io ho avuto l'addestramento normale alla difesa con le armi leggere, armi da combattimento individuale. Erano armi italiane, armi americane, erano appresso la base. Noi non abbiamo mai portato armi all'esterno. Ci fu fatta subito un ammonimento a non usare i nostri cognomi. Da quel momento ci saremmo rivolti l'uno con l'altro solo e soltanto col nome di battesimo e non avremmo dovuto parlare minimamente della nostra vita, dei nostri rapporti, se arrivi da un posto piuttosto che un altro, assolutamente no. Gladio è una struttura clandestina e i suoi agenti devono rispettare la segretezza. Si basa su quella che in gergo militare si chiama compartimentazione. Come spiega il capo dei servizi segreti del Belgio dal 77 al 90, Albert Raes. Questo principio elementare della compartimentazione non è stato osservato soltanto e in modo estremamente rigido dentro Stay Behind, ma più in generale, direi, in qualunque servizio di intelligence. La compartimentazione è uno dei principi base. Noi nel momento stesso in cui facevamo un'attività all'interno dell'organizzazione Stay Behind o facevamo un corso, chiudevamo, si allontanava la nostra vita civile e la vita fatta all'interno della Stay Behind, attivati temporaneamente dentro questa, scompariva rapidissimamente quando tornavamo alla vita normale. Avete sentito il capo rete Gladio, Francesco Gironda. Solo dopo molti anni la centrale permette ai gladiatori di informare almeno le mogli della loro appartenenza all'organizzazione, per poi successivamente coinvolgerle nelle operazioni. Ce ne parla il capo della rete Gladio di Torino, Giorgio Mathieu. Da quel momento, nelle dovute forme, con molto molto sofficemente, io potevo informare mia moglie Luciana del fatto che io appartenevo a questa organizzazione. In caso di invasione, secondo i calcoli dello Stato Maggiore italiano, all'Armata Rossa sarebbe sufficiente una mattinata per occupare l'intera pianura padana. Ce ne parla il responsabile Gladio Paolo Inzerilli. Le invasioni per quanto riguarda l'Italia sarebbero avvenute, uno secondo la solita soglia di Gorizia, e la seconda porta sarebbe stata quella attraverso l'Austria per occupare quello che era la cosa più importante in Italia, che era il famoso cosiddetto triangolo industriale e tutta la pianura padana. Compito dei gladiatori sarebbe quello di rimanere dietro le linee nemiche dell'occupante per poi organizzare la resistenza. Ce ne parla Francesco Gironda. Io avevo predisposto la dispersione immediata, il raggiungimento di luoghi sicuri, prefigurati e mai comunicati ad anima viva. Le attività che potevano fare subito era evasione e filtrazione. Far evadere dal territorio occupato persone importanti o considerate importanti dal governo italiano. Paolo Pocecco. Il compito principale era quello di raccogliere eventuali piloti nostri caduti in territorio occupato. Perché ci spiegarono bene che mentre una divisione corazzata lei la fa in 3 mesi, Per un pilota da caccia ci vogliono 5 anni. E successivamente avrebbero potuto iniziare a fare l'altra attività, cioè condurre guerra armata. Ancora Francesco Gironda. Era una struttura con un elevato grado di efficienza, ottima capacità di espansione, forte disciplina, fortemente coesa agli obiettivi per cui era stata creata. Per fortuna non ci è capitato di provarlo. Ma se nell'immediato dopoguerra i rischi di un'invasione sovietica paiono assolutamente credibili e verosimili, già negli anni 60 è ormai chiaro che Mosca e Washington non hanno nessuna intenzione di scontrarsi militarmente in Europa. Per l'Italia però il pericolo rosso è ormai un altro e viene dall'interno. In Italia infatti c'è il Partito Comunista più forte e più grande dell'Europa occidentale. E allora è possibile che Gladio abbia avuto un ruolo anche sul fronte interno? Che sia stata utilizzata insomma per finalità diverse da quelle per cui era stata concepita e messa in piedi? Il 4 dicembre 1963 viene varato il primo governo di centrosinistra guidato da Aldo Moro con l'appoggio appunto dei socialisti. Si comincia a pensare che anche il PC possa arrivare un giorno a governare il paese e a qualcuno questa idea fa paura. Su iniziativa del Presidente della Repubblica Segni viene improntato un piano di emergenza da attuare in caso di insurrezione comunista. È il cosiddetto piano Solo. Ce ne parla Giovanni Fasanella. Fu concepito per far capire alla politica italiana che c'era un limite che non andava superato, perché superato quel limite sarebbe scattata una reazione. Tra le misure previste dal piano Solo, l'arresto e la deportazione di politici, sindacalisti di sinistra, a Campo Marraggio, la base di Gladio. Ce ne parla lo storico Giuseppe De Lutis. Questa utilizzazione della base di Campo Marraggio come luogo di deportazione mostra un uso politico della base che non è in accordo con l'affermato uso esclusivamente di contrasto dopo una eventuale invasione. Una cosa mi sono chiesta ed era fra i miei timori: se dovesse succedere che il Partito Comunista va al governo, il mio nome va a finire in mano a qualcuno che probabilmente, nel caso in cui il paese fosse stato invaso, sarebbe stato dalla parte dell'invasore. Era l'uomo di Gladio, Giorgio Mathieu. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24. Quella che stiamo raccontando oggi è la storia dell'operazione internazionale Gladio. Nella seconda metà degli anni 60 lo scenario italiano si fa più inquieto. Con il 68 prima e l'autunno caldo poi aumentano anche i conflitti sociali. E aumentano anche le pressioni di un uso politico di Gladio. Sono gli Stati Uniti a chiedere a Gladio di organizzare la controinsorgenza. Il rischio di un'insurrezione comunista va impedito a ogni costo. Dell'esistenza di un'armata clandestina con compiti anti-evasione e di controinsorgenza parla anche Aldo Moro, prigioniero delle BR, nel memoriale rinvenuto nel covo di via Montenevoso, 2 settimane prima della divulgazione di Gladio, nell'ottobre del 1990. Ce ne parla lo storico Aldo Giannuli. Gladio non è un'unica cosa. Gladio è uno dei corpi che afferiscono a un sistema organizzativo molto più complesso, dove c'erano non solo organizzazioni italiane ma anche organizzazioni straniere, dove non c'erano solo corpi più o meno regolarizzati come Gladio, che aveva una sua costituzione anche amministrativamente regolarizzata, ma esistevano anche corpi del tutto irregolari e coperti. A cosa alludeva allora Aldo Moro nel memoriale scritto nelle prigioni delle Brigate Rosse? Alludeva a Gladio o a qualcos'altro? E a che cosa esattamente e perché le parti del memoriale in cui se ne parla vengono ritrovate solo nell'ottobre del 90? O meglio, perché Andreotti rivela l'esistenza di Gladio proprio 2 settimane dopo aver scoperto questa parte del memoriale? Il lavoro dei magistrati intanto va avanti e si scopre che accanto a Gladio esiste un'altra organizzazione, insomma una Gladio parallela, paramilitare e segretissima, fuori dal controllo della NATO. I nuclei di difesa dello Stato. Il primo ad ammettere la loro esistenza, anche se in maniera indiretta, è un militare discusso e controverso, il generale Amos Piazzi, comandante a Verona. Sentiamolo. Per Verona avevo reclutato 50 persone. Avevamo un nucleo di staffette che erano donne addestrate a portare eventualmente ordini, eccetera, eccetera. Un nucleo di persone addette alle radio, erano molto bravi per poter trasmettere all'esercito amico notizie, informazioni, eccetera. E poi un nucleo più piccolo di persone che avevano fatto durante il servizio militare magari gli incursori, oppure avevano fatto quelli che trattano l'esplosivo, eccetera, queste cose qui, che potevano essere disponibili su ordine dei carabinieri, su ordine che veniva dall'esercito amico, di operazioni di guerriglia. Nel 1966 oltre 2000 ufficiali delle forze armate ricevono un appello a scriverlo due neofascisti di Padova, Franco Freda e Giovanni Ventura. Questo è il volantino di Freda. Ufficiali, la pericolosa situazione della politica italiana esige il vostro intervento decisivo. Spetta alle forze armate il compito di stroncare l'infezione prima che essa divenga mortale. Voi dovete aderire ai nuclei di difesa dello Stato. È dalla nuova inchiesta di Piazza Fontana, quella condotta a metà degli anni 90 dal giudice Salvini, che avete sentito, che emerge con chiarezza l'esistenza dei nuclei armati di difesa dello Stato. Gladio non è le stragi, Gladio non è le bombe, non è l'eversione. È una struttura anticomunista che nasce direttamente dalla Guerra Fredda e con lo spegnersi della Guerra Fredda va a perdere la sua funzione. E viceversa, nelle indagini milanesi è emerso qualcosa d'altro, un'altra struttura, questa sì radicalmente illegale, radicalmente direi eversiva, non solo illegittima, che è quella dei nuclei di difesa dello Stato. I nuclei di difesa dello Stato non sono mai stati un corpo come Gladio, con proprie strutture, organigrammi, nomi. Ma è stato l'inglobare all'interno del sistema organizzativo anticomunista delle organizzazioni di estrema destra e i loro apparati paramilitari, più segnatamente Ordine Nuovo. Avete sentito Aldo Giannulli. Per istruire i nuclei armati di difesa dello Stato arrivano in Italia ufficiali dell'OAS, l'organizzazione paramilitare francese che durante la guerra d'Algeria ha organizzato una campagna di attentati e un tentativo di colpo di Stato per rovesciare De Gaulle. C'erano degli agenti francesi che erano venuti dall'Algeria a insegnare ai nostri come fare questa guerra non ortodossa. Guerra non ortodossa che poi coinvolge anche la politica, coinvolge anche il modo di agire dei governi, delle decisioni a carattere nazionale, eccetera, e quindi è una guerra subdola. Avete sentito Amos Spiazzi. Il 1969 è l'anno dell'autunno caldo, delle fabbriche occupate, delle lotte di studenti e lavoratori. È anche l'anno di una serie di attentati. Il più grave è quello del 12 dicembre a Piazza Fontana, che provoca 17 morti. Nelle inchieste verranno coinvolti anche Franco Freda e Giovanni Ventura, proprio gli autori dell'appello ad aderire ai nuclei di difesa dello Stato. Ci sono delle organizzazioni che hanno, per i loro interessi, i loro scopi, hanno fatto questi attentati e che però sono state in un certo senso, non dico, ma sono state lasciate operare forse da elementi del nostro governo, del nostro sistema di allora di governo, perché erano utili per rafforzare il regime e per, in un certo senso, permettere l'emissione di leggi eccezionali. Avete sentito il generale Amos Spiazzi. Secondo la ricostruzione del giudice Salvini, il progetto dei nuclei di difesa dello Stato avrebbe avuto il suo culmine in un tentativo golpista. Il colpo di Stato sarebbe dovuto scattare la notte dell'Immacolata del 1970, a dare l'ordine di entrare in azione il conte Iunio Valerio Borghese. In tutta Italia i nuclei erano scesi in campo la notte del 7 dicembre e c'erano progetti seri di occupare punti di collegamento, di comunicazione e sedi di partito. Mi telefona il capo del fronte nazionale qua a Verona, il generale Corniani, mi telefona e mi dice guardi che abbiamo ricevuto l'ordine di andare a Roma. Per fare cosa? Ah, prendiamo Roma. Quella notte Amos Spiazzi, che avete sentito, riceve dai suoi superiori l'ordine di trasferire le truppe a Sesto San Giovanni, la Stalingrado d'Italia, per reprimere le eventuali insurrezioni. Io sono partito con tutta la mia colonna, sono andato sull'autostrada, sono arrivato fino ad Agrate mi è arrivato l'ordine per radio: attuare esigenza triangolo, esercitazione, esercitazione, esercitazione. Cosa vuol dire quando si dice tre volte esercitazione? Che era un falso, un'esercitazione, e quindi si torna indietro. È una notte in cui l'Italia pullula di uomini che devono agire e che all'ultimo momento invece non agiscono. Da documenti declassificati è emerso che anche gli Stati Uniti sapevano del progetto golpista. Ancora il giudice Guido Salvini. Sono state trovate anche negli archivi statunitensi una serie di dispacci mandati dall'ambasciata americana al Ministero della Difesa statunitense, in cui si diceva chiaramente che questo progetto di golpe era in corso, sarebbe avvenuto nei mesi successivi, quindi gli statunitensi erano assolutamente al corrente di quello che era il progetto della destra italiana. Credo però che fosse vissuto, secondo la strategia degli Stati Uniti in quegli anni 60, come un momento di contenimento. E io estenderei questo giudizio anche ai progetti di attentato e di strage che non venivano ordinati dagli Stati Uniti, non erano gli ordinovisti manovrati sino al punto di andare a prendere gli ordini. Però quel programma di attentati, che forse in parte si pensava da parte dei servizi di sicurezza statunitensi e anche italiani solo dimostrativo, no? Magari senza vittime, è un momento di contenimento del pericolo. Era visto con una benevolenza senza repressione, un controllo, una supervisione senza repressione. Agite, in fondo ci fa comodo. Nessuno degli uomini della Gladio, dal primo all'ultimo, è mai stato coinvolto in nessun affare, non solo avversivo, ma in qualsiasi cosa di illegale. Mai. Nessun magistrato, nessun tribunale è mai riuscito a mettere in dubbio le affermazioni che sto facendo in questo momento. Avete sentito Paolo Inzerilli. Dopo il suo scioglimento, tutti i membri della Gladio rinviati a giudizio sono stati sempre assolti in tutti i processi in cui sono stati coinvolti. E tuttavia rimane il sospetto che Gladio sia stata in qualche modo sacrificata, rivelandone la sua esistenza pubblicamente per coprire proprio i nuclei di difesa dello Stato. Insomma, gli apparati deviati di cui parlava Vinci Guerra. Ma se sulla Gladio è stata fatta chiarezza, la storia di questi nuclei è ancora piena di ombre e di misteri da indagare, come spiegano il gladiatore Francesco Gironda e il giudice Felice Casson. Bisognava illuminare la Gladio perché l'ombra della Gladio coprisse eventuali altre strutture spontanee oppure deviate che potessero avere operato in quell'epoca. Non è che Gladio stay behind fosse il male supremo d'Italia, responsabile delle cose d'Italia. Negli anni 70 c'erano, fino alla metà degli anni 70 almeno, una serie di strutture, sia ufficiali che non ufficiali, clandestine, disponibili a entrare in funzione quando dovesse servire. Questo era il panorama negativo dell'inversione dell'epoca e tutto convergeva al vertice dei servizi segreti militari. Questo è il problema e su questo ovviamente ci sarebbe ancora tanto da indagare. Mix 24.